dove siete, quando è iniziato il corteo, a che punto siete? Allora, saremo più o meno a metà di questa manifestazione che si sta svolgendo davanti alla fabbrica della RVM di Domus Novas. Sì, sì. Zona dell'Iglesiente. Sì. Dove vengono prodotte, dove vengono prodotte le bombe? Sì, si fabbricano, questa è una fabbrica dell'RVM che ha la sua sede centrale a Berlino. Sì. Infatti oggi è una giornata di lotta anche a Berlino, perché si tiene l'assemblea degli azionisti. Ah, ecco. Quindi nello stesso momento si stanno anche della Rheinmetall, che è la madre della RVM. Sì. È un colosso della fabbrica di armi che ha sede in tutto il mondo, con un fatturato formidabile. Sai che sento molto male, mi devi rifare la domanda? No, dicevo che si stanno incontrando nello stesso momento in cui voi siete lì in corteo di fronte. Sì, sì, sì, infatti questa è appunto una giornata in cui si tiene manifestazione anche a Berlino. Abbiamo scelto questa data, insomma, per questo motivo, era particolarmente significativa. Abbiamo visto che volevano anche spostarvi l'orario, ma non avete voluto. Sì, ci chiedevano di iniziare il corteo un'ora dopo, perché insomma questo collimava col turno, in modo da non disturbare la fine del turno. Comunque ci siamo dati comunque appuntamento da piazzale, insomma abbiamo trovato la strada bloccata. Ah, ecco. E insomma ci siamo messi lì, abbiamo gridato i nostri slogan, abbiamo chiesto che ce l'aprissero. Comunque un gruppo del corteo già si stava arrampicando per le colline per raggiungere il cancello della fabbrica. E poi ce l'hanno aperta con un certo anticipo. Sì. E siamo entrati. Comunque insomma è significativo che evidentemente un pochino dava annoia, ecco, questa convocazione. Certo. Dava annoia alla produzione. Certo, certo. E questo ci fa piacere. Sì, dimmi, ma ci puoi dire un po' di più sulle attività di questa azienda? Sì, producono bombe proprio intensivamente. Hanno delle commesse formidabili, ne hanno ricevuto una di 2 milioni di euro. Il principale committente è l'Arabia Saudita, che come sappiamo sta bombardando Yemen. Il nostro paese, il ministro della Pinotti, dà un permesso di transito a questi ordigni. Dà un permesso di transito. Laddove invece il governo tedesco non dà un permesso di commerciarli, ecco, perché anche lì hanno leggi che proibiscono l'esportazione, però siccome sono prodotte in Sardegna praticamente la cosa li va liscia, la fabbrica riesce ad aggirare la legge tedesca che non consentirebbe commercio con l'Arabia Saudita. Anche l'Italia ha una legge che proibirebbe il commercio con un paese belligerante come l'Arabia Saudita, belligerante e che non rispetta i diritti umani. Però appunto, considerato che si tratta di un semplice permesso di transito e non di commercio, la cosa viene aggirata. È una cosa di un'ipocrisia infinita, proprio, certo. Cioè, fa veramente molta rabbia vedere come dei paesi cosiddetti democratici nella sostanza lo sono ben poco invece, e lucrano sul sangue di un popolo che si prende le bombe sulla testa. Scusa, forse l'hai già detto, perché ho letto sul vostro blog che la vostra idea di oggi era di bloccare un po' e di essere lì al momento per bloccare un po' la fabbricazione di queste bombe. Ci siete riusciti? Non lo so. Non lo sai. Noi ci stiamo provando, però speriamo di aver recato disturbo. Sembra di sì, visto che ci hanno, insomma, volevano spostarci, ritardare di un'ora. Mm-hmm. Evidentemente un disturbo l'abbiamo provato, l'abbiamo arrecato. Insomma, noi ci proponiamo di continuare comunque con questa azione, che è anche un'azione sì, di disturbo diretto e anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso, insomma, proprio l'oscenità di questa presenza di questa fabbrica.